Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Volevamo iniziare così con dolcezza, con Ricky Martin e Ariana Grande che interpretano questa famosissima canzone degli Oasis. Iniziamo così con uno dei momenti più emozionanti dell'unico fatto bello. L'unico fatto bello delle ultime di, ore. Di sì. di un weekend britannico da pazzi. Oltre ogni incubo, lasciamo a spazi più adatti quello che è successo a Londra, i fatti davvero gravi, e ci concentriamo su quello che è successo a Cardiff e quindi Parterre de Roi, qui che potete vedere anche. Sì, è vero. Dov'è? Dov'è la telecamera? Là. Potete vedere collegandovi con il sito di Radio 24, quello magro, o con sono io. Facebook, Parterre de Roi. Volevamo anche il signor Freud, ma aveva un altro impegno. Crociani che oggi Pier non Luigi ha badato a spese quanto a shampoo, sapendo che c'era la telecamera. Sei un maniaco. Allora, non mi faccio la doccia da un paio di giorni. Va bene, sei stato impegnato. Esattamente, dalla giornata di venerdì mattina. Da venerdì mattina non faccio la doccia. Bene, andiamo avanti. Testimone oculare della doccia di Crociani, testimone oculare, cioè, l'unico che non si occupa, diciamo, a 365 giorni di calcio, è l'unico che era Cardiff. E sorvoliamo sui motivi, e Pasolini, per cui il Pardon non era Cardiff, e sorvoliamo. Ho condotto un programma da Colonia, quindi ero che peraltro è andato benissimo. Ci ho guardato, poi ti dico anche un paio di cose su quel programma. Allora, stiamo cercando disperatamente, non Arianna, stiamo cercando disperatamente il motivo per cui la Juventus è stata presa a calcio nel culo dal Real Madrid nel secondo tempo. Perché puoi aspettarti che perda, puoi aspettarti che giochi contro il Real, puoi aspettarti che non vada come speri, eccetera eccetera, ma l'atteggiamento della Juventus nel secondo tempo, la passività della Juventus nel secondo tempo non ha una spiegazione logica che sia una, razionale che sia una. Lo chiedo a Giuseppe Cruciani, testimone oculare, quali sensazioni ha avuto dallo stadio? Essere stato allo stadio piuttosto che in televisione. Cambia zero, quasi zero. Per l'atmosfera intorno sì, ma per quello che è successo in campo è esattamente come vederlo in televisione, insomma. Vai tu. No, ma io penso che insomma c'è un verdetto netto di una squadra superiore, che ha dimostrato di essere superiore. Delle volte non hai mai la contro, nelle finali, nelle grandi partite, non hai mai la controprova del valore di due squadre. Real Madrid ha dimostrato di essere superiore alla Juve. Sicuramente la Juve ha avuto un approccio nel secondo tempo che non ha una spiegazione. Quindi la tua risposta, la tua domanda rimane inevasa, come dicono quelli che parlano bene, perché secondo me non c'è una spiegazione. Non so se è un aspetto fisico, sicuramente il Real correva più della Juve nel secondo tempo, ma credo sia più un aspetto invece mentale e di forza. Cioè, il Real Madrid ha dimostrato che comunque Cioè, come c'è il primo dei non eletti, la Juve è forte, è molto forte, ma non abbastanza per poter battere il Real. No, cioè, no, ma sono d'accordo. È un po', però è un po' quello non... che sta accadendo nelle finali NBA. Cioè, c'è una squadra, due squadre molto forti, naturalmente, con una squadra che appare in questo momento nettamente più forte. Detto questo, la spiegazione del secondo tempo, Carlo, la spiegazione del secondo tempo, chi la può sapere? Cioè, non è che le finali, una partita di pallone ha sempre uno svolgimento logico. E secondo me, al contrario di quello che molti juventini sostenevano in tribuna alla fine del primo tempo, c'erano già le premesse nel primo tempo, però, della sconfitta della Juve. Dove le hai viste? Io le ho viste, molti erano ottimisti e dicevano alla fine del primo tempo, però poi le occasioni le abbiamo avute noi, i primi 10 minuti, effettivamente i primi 10 minuti l'evento si è giocato molto bene, però già alla fine del primo tempo si vedeva la circolazione di palla del Real Madrid, che era sicuramente superiore, e comunque c'era una circolazione di palla. Ripeto, a parte i 10 minuti, la Juventus secondo me non si è vista. Il gol è stato abbastanza casuale, bellissimo, ma assolutamente casuale, non frutto di una manovra, eccetera. Le azioni del Real Madrid, è vero che fino al gol erano state poche, ma ripeto, gli ultimi 10 minuti del primo tempo e comunque un controllo, io vedevo il Real Madrid in controllo. Quello che vedevo io il primo tempo era comunque il Real Madrid in controllo, e sentivo i tifosi della Juve intorno a me che non vedevano l'ora che finisse il primo tempo, perché gli ultimi 10 minuti con la palla che circolava, senza occasioni, ti facevano capire che se c'era una squadra che poteva segnare, questo qua era il Madrid e non la Juventus. Ma non nel primo tempo, però. Sì, anche nel primo tempo. Negli ultimi 10 minuti, anche nel primo tempo. Ha incartato Allegri. Ragazzi, Zidane oggi è stato celebrato. Oggi, Giuliano Inglesi, celebrato, perché bisogna rendere merito a una cosa. Zidane è arrivato nel gennaio 2016 e nessuno pensava che avrebbe potuto ottenere questi risultati. Uno che si pensava, sì, un giocatore fortissimo, ma non in grado di fare allenatore di pallone. Fino a quel momento aveva allenato il Real Madrid B, e bisogna dire che il carisma, anche la tattica, che non serve moltissimo in questi casi con tutti i campioni che hai, però comunque serve a metterli bene in campo, ha preferito Isco al padrone di casa Bale. E Isco ha fatto forse la migliore partita della sua carriera. Ma io ho l'impressione che anche quella abbia fatto anche la quella comunque partita una grande dimostrazione di attributi, perché insomma non schierare, sia pure rientro all'infortunio, non schierare Bale in una finale di Champions, cioè il titolare di quel ruolo a Cardiff, insomma è stato un grande atto di... Ragazzi, Isco è stata l'arma impropria del Real Madrid sabato. Ma cioè, già lo si era visto nelle partite precedenti. Vagava per modo di dire, insomma, in tutto il campo. Ma molti erano dubbiosi anche su Isco in finale di Champions, comunque la prima per lui, o la seconda non so se 2 anni fa c'era, non credo. Comunque, insomma, si perde anche di brutto. Sì, ma non in questo modo. Poi c'è l'elemento. In questo modo, l'ha detto anche Buffon. Sicuramente è una brutta sconfitta. Ma insomma. Poi c'è l'elemento che molti, naturalmente, su cui molti si soffermano, di questa cosa psicologica della Juventus. Allora, secondo me, questo fattore psicologico delle finali pesa e non pesa. Pesa per che cosa? L'unica cosa che ti posso dire, diciamo, di originale rispetto a tutto quello che abbiamo sentito in questi giorni è questo. Io ho parlato la sera, tornando a Londra, nella notte, tra in treno da Carlo, con moltissimi tifosi della Madrid, perché ho preso il treno molto tardi e dunque c'erano solo tifosi della Madrid, e quello di Juventus sono andati via prima, verso l'1:15 da Cardiff, 2 ore di treno. Ho parlato con tantissimi tifosi della Madrid intorno a me. Parentesi, l'atmosfera che c'è, come lo sa benissimo Pier, durante una finale di Champions non ha uguali, cioè tifosi che vanno insieme, magari si dicono delle parole, ma non succede nessuna rivalità, nessuna piacere di essere lì, nessuna idea di mettere le mani addosso a qualcuno, zero. Allora, e questo è fondamentale ed è meraviglioso. Questi tifosi della Madrid che cosa dicevano? Sì, noi abbiamo esultato, io ho detto, ma com'è stata la premiazione, che io non ho visto perché sono andato via pure io. Com'è stata la premiazione? Sì, bella. Le altre volte. Sì, bella. Però se avessimo perso non sarebbe successo. Bravo, esatto. La differenza nella testa dei giocatori è questa. La Juventus ha preso questa roba qui come la partita della vita. Però ragazzi, questa qua è la classica cosa che puoi interpretare prima della partita. Dopo siamo tutti ovviamente bravi a dire quello che è stato. Prima della partita è la classica cosa. Cioè io ho sentito tantissimi commentatori, anche illustri, dire la Juve vince perché ha più fame. La fame in realtà può diventare ossessione, no? Cioè, quindi, è ossessione, ma io te l'ho detto anche l'elemento ieri. L'elemento ossessione si può rivelare positivo, una grande molla negativa. In questo caso, grande io credo che se c'era una squadra che aveva una grandissima pressione addosso, che si è trasformata purtroppo, era la Juventus. Ma io, giocato, i giocatori della Madrid hanno giocato testa libera. Ho seguito Tiki Taka di Pardo, il pre-partita. Tiki Taka News. Ok. E glielo ho detto anche ieri, cioè tu hai fatto l'ufficio facce con no, sempre era impressionante perché, a differenza allora, delle facce. Impressionante perché anche giocatori che hanno giocato 30 finali come Dani Alves erano trasfigurati dalla tensione. Quelli del Real sono arrivati normali come a giocare una finale come le altre. La differenza è che il Real Madrid poteva vincere o perdere quella partita, non sarebbe crollato il mondo, mentre per la Juventus crolla un certo mondo. Allora, già vi avverto che ci sono un miliardo di ascoltatori, certo. 800 24 00 24. E certo, ci fermiamo per il traffico e poi tocca a loro. Convocati. Tutti convocati. Alla tecca Patrizia! Aia! E arriva! Il terzo gol! Come mai la Champions League tu non la vinci mai? Come mai la Champions League tu non la vinci mai? Ma non lo dico a quelli che arrivano secondi e terzi e stanno stappando lo champagne e rimangono secondi, terzi, e siccome state stampando lo champagne, l'anno prossimo, ve lo dico prima, non sarete secondi e terzi, ma quinti e sesti, perché i cinesi vi passano davanti, quindi voi sarete quinti e sesti, e noi vinceremo ancora il campionato, e voi quinti e sesti, noi vinciamo il settimo scudetto, e voi quinti e sesti, poi l'anno dopo c'è una nuova squadra, che non vi dico quale, che farà una grande campagna acquista, e voi settimi e ottavi, fuori anche dall'Europa League. A Madrid, a Madrid, altre due parole per Pierluigi. Ciao Pierluigi, ottimo, grande finale, grande, vai l'anno prossimo alla Madrid. Inutile nascondere che ovviamente l'Italia era spaccata in due con un partito maggioritario. Sì, ecco, partito io credo, maggioritario, devo dire che ho sentito dei boati sul 2-1 e 3-1 abbastanza. Maggioritario abbastanza che era di tifosi. Ma è normale, guarda, ne parlavamo adesso durante la fascia con Giuseppe. È normale perché innanzitutto, come abbiamo detto mille volte, noi siamo per la libertà di gufaggio sempre e comunque per un motivo semplice. Sì, che il tifo è libertà, al cuore non si comanda, se uno non si sente di godere, cioè, perché poi, l'altro perde, è legittimo. Poi, e poi c'è una componente, secondo me strettamente legata alla Juve, nel senso che la Juve ha dominato gli ultimi anni in Italia, quindi sicuramente insomma diciamo ha tante rivali, e poi anche perché la Juve ha parte del suo DNA, il famoso slogan vincere è l'unica cosa che conta, lo sciacquatevi la bocca di Bonucci, c'è tutta una serie. Però voglio dire, questo è un elemento, cioè la leadership della Juve per scelta legittima della Juve non è una leadership diciamo buonista, moderata, nei confronti degli avversari, moderata, chiaro. Che qualcosa di risultare simpatici agli avversari, è una leadership che spesso si carica proprio dell'antagonismo, quindi è normale quando la Juve perde gli altri godono. Facciamo parlare agli ascoltatori, qui raccomando di essere brevi nei loro interventi perché sono tantissimi e quindi se no non riusciamo a dare risposte, ci parliamo addosso eccetera. Matteo, buongiorno. Sì, buongiorno, mi sentite? Si dica. Niente, secondo me un aspetto fondamentale nella sconfitta della Juve, io sono juventino, e che non viene mai menzionato prima della partita ma soltanto dopo, è proprio quello psicologico, il problema psicologico, perché i giocatori più forti, ad esempio Dybala, per non dire Dani Alves, si vede che sono schiacciati dal fatto che ogni volta è l'appuntamento con la storia e ogni volta è l'ennesimo dramma psicodramma bianco-nero, esatto. Sì, quindi ma il discorso può valere. Non gli viene mai dato preso prima, perché sembra che le partite come quella contro il Barcellona o la semifinale valgano allo stesso modo. Invece, quando ci sono 90 minuti, l'incubo è legato al fatto che 90 minuti. L'ossessione ritorna. Alberto, aspetta, Alberto. Siamo quasi a Bela Gutmann ormai per la Juve. Alberto, dica. Sì, io volevo fare un intervento tecnico. Secondo me, visto che costano di poi, sono capaci tutti, però Allegri prende 5 milioni e mezzo di euro all'anno. Giocare con quei tre difensori statici lì è stato un errore. Io, visto che alla fine del primo tempo si era capito che il Madrid stava andando molto al doppio della Juve, avrei cambiato, come dire, avrei messo un centrocampista in più e fatto la difesa 4. Poi magari tiravo giù una di palla e mettevo su Quadrado e Marchisio al posto di un difensore. Questo può essere, ma l'abbiamo già vista. Al Massimo. Pronto? Sì, dica. Buongiorno, Massimo da Udine. Vado anch'io veloce. Provo una spiegazione tecnica, anche se è difficile, 4 gol sono troppi. L'errore della Juve, secondo me, è stato, dopo aver rimontato, che è già difficile una finale, non ha saputo chiudersi un po' all'italiana. Io non avrei lasciato gli attaccanti a fare questo pressing tutto campo, perché il Real era veloce a uscire dal pressing con passaggi in diagonale, non in profondità. Li abbiamo visti tutti come facevano. Chiudendosi in 10 dietro la linea della palla, il Real avrebbe avuto le sue difficoltà e magari nel finale veniva fuori un gol. Io la vedo così. Sentiamo anche Cosimo, così facciamo il pieno e poi parliamo di tutto. Dica. Ah, io la penso completamente diversa dalla precedente. La risposta alla domanda perché la Juve è crollata, secondo me l'ha data Allegri alla fine durante le interviste, perché lui ha detto che la squadra doveva tenere le posizioni, stare in difesa e aspettare le ripartenze magari alla fine della partita. Quando hanno subito il 2-1, lui dice esplicitamente dovevamo stare lì in difesa e aspettare, sperare che un gol arrivasse nel finale. In realtà, se tu hai un approccio di questo tipo, le finali non le vincerai mai. E quindi secondo me la vera risposta l'ha data Allegri, cioè un atteggiamento comunque di attesa che in questo tipo di partite contro squadre come Real non paga assolutamente. No, però quella frase di Allegri era riferita, come diceva giustamente l'ascoltatore, a dopo il 2-1, cioè quello lui dice: dopo il 2-1 una squadra deve avere la maturità di capire che non è finita, compattarsi e cercare poi di riagire. Ci dovevamo difendere dopo il 2-1. Ma ti dico, l'approccio, anzi, in qualche modo faccio un mix con quello che ha detto l'ascoltatore precedente. Secondo me la Juve ha avuto un approccio invece aperto alla gara, tant'è vero che l'ascoltatore giustamente prima invece chiedeva un atteggiamento più all'italiana, o comunque insomma sottolineava che la Juve ha provato a giocare la partita. Ragazzi, il Real è stato superiore, nettamente superiore. Alcuni leader storici della Juve hanno fallito una grande occasione. Probabilmente c'è un fatto tecnico, cioè il Real è più forte. Probabilmente c'è un fatto quasi mentale. Quasi sto con il primo ascoltatore che ha detto: quando arrivi lì, al dunque, anche giocatori esperti sentono l'ossessione. No, ma io non credo che sia quel discorso. Può valere per Dybala, ma non per Dani Alves. L'ascoltatore ha fatto due esempi che sono uno agli antipodi dell'altro. Lascia perdere l'atteggiamento trasfigurato di Dani Alves. Quello ci può stare per la tensione, per la carica, ma insomma Dani Alves ha giocato 100 milioni di finali, per cui non credo che fosse parecchie, ne ha vinte anche tante, non credo che fosse così vittima. Ma magari Buffon, ma cioè noi nei giorni scorsi nel presentare la partita dicevamo che poteva essere una sorta di medaglia, una sorta di coronamento della carriera di alcuni giocatori. Ma quello sono discorsi giornalistici che si fanno, è normale che si faccia, non credo che mettano pressione al giocatore, cioè non credo. Poi però, molti juventini hanno Buffon criticato, aveva più pressione di Cristiano Ronaldo, per dirti. Sì, certo, molti juventini hanno criticato allo stadio Buffon sul secondo gol perché si è buttato secondo loro in ritardo, ma anche sì, se c'è stata la deviazione, al di là dei dettagli io invece sono convinto di una cosa, che all'inizio del secondo tempo, poi naturalmente sempre col senno di poi, all'inizio del secondo tempo, quando questa onda viola, quando questa onda del Real Madrid effettivamente ti faceva capire, perché diciamo la verità, il secondo gol del Real Madrid è stato sì una deviazione, ma c'erano le premesse in 4-5 azioni precedenti, cioè, c'era una situazione in cui li stavano prendendo a pallate, in quel momento lì forse prima di prendere il 2-1 una mossa rivoluzionaria ci poteva stare, però sai, questi sono discorsi col senno di poi. Magari Allegri pensava di resistere per un altro quarto d'ora e le cose sarebbero assestate. Il fatto è che non è stata la solita Juventus compattezza di squadra. Gli attaccanti loro salivano, proteggevano e smistavano la palla. Higuain e Dybala non l'hanno mai fatto, non l'hanno fatto o sono stati anticipati o sbagliavano il passaggio. Dal 2014, quando ha lasciato il Real, ha giocato 8 finali, ne ha vinte 3 Coppa Italia. Sono stupidaggi. Coppa Italiana e Coppa Italia, ma che le tre finali perse dalle 4 finali, due della Coppa America e il Mondiale. Secondo me, rispetto a quello che è il suo talento, che è enorme, perché il talento di Higuain è enorme, non c'è poco da discutere, l'ha dimostrato l'anno scorso, l'ha dimostrato gli anni prima, non c'è bisogno anche di parlarne, però nelle grandi partite non è la prima volta che Higuain un po' delude, questo si può dire, cioè nella finale come Ibrahimovic, vuoi dire, insomma un po'. Ibrahimovic ha più, secondo me, un problema di rapporto con la Champions League tout court, che vuol dire, perché lasciò l'Inter nell'anno in cui l'Inter ha vinto la Champions, quindi sì, è praticamente... Sì. Insomma, però ci sono grandi giocatori che le finali le soffrono. Cioè, Dybala non pervenuto, Omar da Milano pervenuto. Buongiorno. Dica. Buongiorno, sono un tifoso juventino e posso dire una cosa? Io dico che noi con la Coppa non la vinceremo mai perché siamo un pochino anche scarognati. Il primo tiro, gol di Ronaldo, e dopo il loro primo tiro in porta, gol. Il secondo gol, è vero che dopo ci hanno preso a pallonate, è vero che andavano più forti, però due tiri. Il secondo, deviazione. Il nostro tiro di Pjanic, pronti via, il portiere fa l'unica parata, la fa su quel tiro lì. Il portiere fa parte del Madrid. No, io non sto dicendo quello. Io sto solo dicendo che è vero, erano nettamente più forti. Però... Ma nettamente no, ma non è che noi, no, è vero che gli episodi non l'hanno aiutato. Sabato sì, però... Omar parla di sfortuna. Adesso, francamente, cioè, la sfortuna in questo caso, ma non per il 4-1. Vedi? C'è un evidente passo indietro rispetto a due anni fa. Cioè, il primo gol del Real Madrid, rispetto il primo, a Juve Barcellona, una partita completamente diversa. Il primo gol del Real Madrid nasce da uno scontro al centrocampo tra Dybala e non mi ricordo chi, forse Dani Alves. Comunque, da una palla persa dalla Juventus. Da questa palla persa, loro in quattro passaggi, di cui uno meraviglioso indietro di Carvajal. Perché il gol di Cristiano Ronaldo non è il frutto del tiro di Cristiano Ronaldo, che è un tiro normale. Sì, è frutto di Carvajal. È il passaggio in velocità di Carvajal. Che nel primo tempo ha fatto un mazzo così alla Juventus, ma questo era da aspettarsi. Questa azione in velocità, dall'altra parte, non ci sono state. Questa è la realtà. La deviazione. Se ne fai 8 di tiri, è chiaro che... è vero che quello è il primo tiro. La Juventus ci ha abituato ad una solidità che ha improvvisamente perso nella notte di Cardiff. Marco? Ciao a tutti, grazie per la convocazione. Ciao. Tentavo di dare una risposta alla vostra domanda, che secondo me, come diceva Cosimo, l'ha data lo stesso Allegri, ma non nell'intervista post partita, ma nella conferenza del Media Day del martedì. Cioè che loro Allegri diceva che per quei giorni si sarebbero allenati solamente per un'ora e mezza al giorno. Sì. E gli sportivi professionisti non si allenano un'ora e mezzo al giorno, fanno la lavoretta la mattina. Abbia sbagliato gli allenamenti della settimana prima della finale di Champions League, francamente mi sembra un'ipotesi surreale. Non scherziamo anche perché poi è vero che la cosa fa incazzare noi comuni mortali, ma è dimostrato scientificamente che non è la quantità di allenamento di questi signori strapagati che cambia il rendimento in campo, anzi soprattutto man mano che ti avvicini a ridosso delle grandi partite devi mantenere un alto livello di intensità, ma non devi caricare di questa stagione. È stata la gestione di Cristiano Ronaldo, ne parlavamo anche ieri, che è stato lasciato a lungo a riposo da Zidane, ha saltato molte più partite rispetto agli anni passati ed è arrivato a un finale di stagione straordinario. Abbiamo la borsa, subito dopo torniamo, ci sarà il professor Giancarlo Marocchi che pure era a Cardiff. A dopo. Tutti convocati. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Beh, oggi siamo tutti, Pardo in studio, Giuseppe Cruciani. Ma che sono il signor Capuano? Dov'è Capuano? Dov'è Capuano? Ha fatto una notte d'inferno tornando da Cardiff ieri, era qui che non ce la faceva più. Giancarlo Marocchi, buongiorno. Mancavi solo tu. Adesso chiudiamo, ci siamo tutti. Stasera, come stai? Stasera sarai ospite della Zanzara. Ah no, però, parlerete. Che ha fatto di male? Di altri argomenti. Ma no, assolutamente no, perché non ha fatto niente di strano, niente di male. Non vedo perché dovrebbe essere sottoposto a queste torture. No, 24 ore prima della partita. Questi sono. Ma perché devi parlare della Zanzara? Siamo qui. Siamo a casa tua. Io sono stato a Cardiff con Giancarlo, che non ho incontrato purtroppo, e la sensazione che ho avuto è che, ragazzi, Oggi i giornali inglesi parlano solo di Zidane, rendono omaggio a Zidane, e secondo me una delle spiegazioni della sconfitta della Juve si chiama Zinedine Zidane. E tutti quanti, io giuro, anche lo stesso Giancarlo, sono sicuro che lo ammetterà, a gennaio del 2016, quando Zidane è diventato allenatore del Madrid, non avrebbe scommesso un euro, doblone, ma fino a non sulle due vittorie, perché nessuno avrebbe scommesso, ma su Zidane allenatore. Fino a 20 giorni fa fino a 20 giorni fa era in bilico, adesso è un genio anche per Florentino Perez. No, ma non è un genio, chi ha parlato di genio? Florentino Perez. Uno che arriva in 17 mesi voglio prendere una squadra che era sventrata. Fammi sentire Marocchi. No, allora, vabbè, quello che pensa Florentino Perez, ci vuole bisogna essere sul pezzo tutti i giorni, perché magari cambia anche troppa idea. Ma però sì, Zidane probabilmente era quello giusto nel posto giusto da provare. Sì. Perché chiaramente nessuna esperienza, solo giocatore immenso nel rapporto con la palla, quasi unico, ecco, nel controllare la palla, nel gestire la palla, una meraviglia. È meraviglioso anche come allenatore del Real. Poi, se anche non lo testeremo mai come allenatore di una squadra medio piccola, che se ne frega. Ma sì, è un altro mestiere, Giancarlo, lo sai benissimo. Qui Gianni ci scrive: non sottovaluterei Zidane, 3-2, Isco tra le linee, Casemiro a schermo di Dybala, ma Marcello, non c'è Carvacan, La vera domanda a cui noi non troviamo alcuna risposta, non so se te ne sei data una tu, Giancarlo, è come abbia fatto la Juventus, che faceva della solidità, ha fatto della solidità la sua bandiera, cioè una squadra che è granitica, che non puoi prendere a calcio nel sedere come ha fatto Real Madrid nel secondo tempo in modo passivo. Allora, arrivo, finisco su Zidane. Il vero valore di Zidane si sarebbe avuto se in piena forma Bale, in piena forma Isco, avesse scelto Isco e giocato così. Chiusa la parentesi, perché delle volte gli allenatori devono essere anche fortunati, che uno si faccia male quello giusto al momento giusto, di infortunio, eccetera eccetera. Allora, veniamo alla differenza, che comunque differenza tecnica sapevamo ci sarebbe stata, perché 14 o 15 mostri tecnicamente nel Real Madrid, super giocatori, ma nella loro completezza, quindi fisici, determinati, quelli della Juve. Secondo me, alla fine bisogna sommare, cioè la differenza grossa la vedi se sommi la differenza che c'è tra tutti i giocatori della Juve, che hanno qualcosina in meno di quelli del Real, ma una cosa piccola, però se le metti moltiplicando per almeno 10, perché il portiere forse è meglio quello della Juve, per 10 vedi che la differenza è, non so, magari non era 4-1, ma sicuramente meglio Real. Quindi Chiellini e Barzagli fanno 5 passi in meno in avanti con la palla al piede, perché vengono pressati da Cristiano Ronaldo e Benzema, e i due centrocampisti, che Dira in inserimento non si è mai visto perché doveva pensare a Modric. Alla fine i nostri attaccanti, gli attaccanti della Juve, li vedi da soli come non li vedi mai durante il campionato. Quindi anche Higuain, anche Dybala contro due difensori più Casemiro, fanno fatica a tirare in porta. Ecco, io mi sono dato questa spiegazione legando tutte le cose insieme. Ma questo lo sapevamo già prima, però quello che dice Giancarlo lui sicuramente eppure si avanti lo dice, con una fiducia lo dice diversa. Da tempo, perché non è che viene qua a contraddirsi rispetto a quello che diceva prima, però è contro tutto quello che si è detto nell'ultimo mese. Cioè, nell'ultimo mese chiunque io abbia letto o sentito eccetera su questa partita diceva: le due squadre sono più o meno alla stessa altezza, anzi se c'è una squadra, diciamo, con più fame, c'è una squadra più, capito, che questo è, e questa è la Juventus, che se la può giocare alla pari. Cioè, non si è mai parlato di una superiorità tecnica del Real Madrid. Io l'ho sempre sostenuta, e io, come tutti gli altri, un po' mi ero fatto prendere dall'italianità, dal mio passato eccetera. Ho detto: la Juve magari ai rigori come nel 96 la vince, quindi se vincesse la Juve mi ero messo su quel carro anch'io. Sulla superiorità tecnica proprio io non ho mai avuto dubbi, certo, l'ho Giancarlo sempre esternato, ma non per mettere in guardia nessuno. E poi alla fine ti aspetti che Mandzukic, che tutti hanno detto migliore in campo, cioè costringesse Carvajal, tra l'altro erano in due contro uno su quella fascia, quantomeno star sempre dietro, quantomeno andare in difficoltà. Cioè alla fine che Alexandre e Mandzukic ci abbiano fatto così poco in fase offensiva, sì, qui hanno spiazzato anche me, quindi... Sì, sì, no, ma questo è... Sì, ma... Questo è tecnicamente. Io ho visto un giocatore, francamente, che non ho mai visto quest'anno a questi livelli, che si chiama Isco, perché ha fatto tutto, sì, il campo, sì. Ed è quello che ha messo in grande difficoltà la Juventus in qualsiasi momento, oltre a Modric, cioè, ma come tutti che hanno giocato da 9, non c'è un giocatore, credo, sotto il 9 nel Real Madrid. Anche il portiere, che tu hai detto il portiere della Juventus, sì, è superiore a quello, in realtà è quello che si può dire che ha dato una svolta alla partita. È vero, perché è vero, quella palla lì di Pjanic, se entra quella magari la partita cambia, no? Sì, lui ha fatto una super parata all'inizio, invece Buffon su Casemiro non c'è arrivato, cioè su quello è vero. Ecco, tu, molti tifosi della Juventus, non so se tu hai avuto la stessa sensazione, Giancarlo, hanno un po' dopo naturalmente rimproverato Buffon per... su Casemiro, secondo te ha qualche responsabilità o no? Guarda, non vado neanche sullo specifico, perché ti dico, avevo di fianco a me altri del gruppo Sky, che eravamo, sì, eravamo lì. Cioè io anche nel momento in cui la Juve dava la parvenza di essere vagamente meglio nel primo tempo, io continuavo a dire loro: ma avete mai visto una squadra che si passa la palla con quella qualità? Cioè, sì, io ero estasiato, ma anch'io, cioè, infatti, nel vedere anche Real, nel primo tempo anch'io. Ragazzi, ma tu, anch'io, sono tutte cose che sapevamo, ma minuti, allora perché siamo andati a Cardiff con tutta questa fiducia? Io non sapevo che il Real avrebbe umiliato così la Juve come nessuno lo sapeva. Però Giancarlo ha detto una cosa, perché mi piace essere intellettualmente onesto, a me sembrava una partita equilibrata, comunque da Juve Barcellona, esatto. Juve Barcellona sono state due partite, cose che si dimenticano quando si arriva in finale. Tu puoi avere eliminato pure anche Real Madrid, se avete le due partite col Bayern Monaco alla fine, però voglio dirti, cioè, non è che adesso, cioè, che l'entusiasmo, l'ottimismo, comunque la fiducia nei confronti della Juve fosse basata sul nulla. No, assolutamente, la Juve ha avuto un no. percorso che è stato assolutamente virtuoso. Noi stiamo parlando, anzi, però di quella partita, della partita singola, non dei precedenti. Sì, Giancarlo ha detto una cosa, la Juve ha toppato la partita e ha stravinto strameritatamente. Anche chi nel primo tempo dice che le due squadre hanno giocato alla pari, invece, e giustamente Giancarlo da questo punto di vista mi conforta, chi riesce a vedere al di là del tifo, delle cose, vedeva una squadra in controllo, e questa squadra con passaggi di qualità, con scambi di qualità, con possibilità di segnare con azione. Poi il gol di Mandzukic è casuale. L'unica squadra che ha la possibilità di segnare la situazione, a parte i primi 10 minuti, si chiama Real Madrid, giusto Giancarlo? Sì. No? Sì, sì, è vero. Ma sai che cosa? Poi alla fine avevamo tutti voglia di farci coinvolgere da questo ottimismo, perché poi alla fine siamo tutti umani, cioè sia soprattutto i tifosi, poi noi, tra virgolette, addetti ai lavori e comunque al seguito, e chiaramente i giocatori, stavamo preparando una gran bella festa, c'è poco da fare, e quindi diventi un po' più ottimista e non riesci a rimanere freddo quando c'è di mezzo comunque una squadra italiana. Per me Juve Barcellona, cioè, per me è stata quella la partita che mi ha portato a pensare, non è che, cioè, poi magari gli juventini avranno avuto anche una componente, diciamo, di razionalità e di fiducia basata sul tifo, ma in generale anche a noi ce la può veramente fregare di meno. Juve Barcellona però era stata una grande partita. Quello che diciamo l'altro giorno con Filippo Maria Ricci, che segue più spesso il Real Madrid, è che fino alla semifinale la Juve praticamente non aveva mai avuto momenti o mezz'ore, bravo, di bambola, bravo, clamorose, bravo, mentre Real Madrid, bravo, comunque nel, sì, suo percorso di avvicinamento alla finale, queste mezz'ore le ha passate. Col Bayern ha rischiato di uscire, e i primi, forse perché l'ho raccontata, mi è rimasta più impressa la prima mezz'ora con l'Atletico Madrid. Va bene, aveva vinto 3-0 l'andata, però ha sofferto tanto. Quindi, insomma, secondo me non era diciamo, l'ottimismo della volontà. Il migliore in campo contro il Barcellona, insomma, non sicuramente, non in assoluto Dybala, anche Buffon, ecco. Però col senno di poi. Poi è chiaro che ti rimangono sempre impresso. Cioè, io non me ne faccio un problema nell'essermi fatto trascinare nell'ottimismo. Nessuno di noi. Non c'è. Alla fine è successo esageratamente quello che non doveva succedere, ecco. Quindi, perché anche nella superiorità Real non può vincere così in modo. Bravo, esatto. Il senso è questo. Ciao Gianca, grazie. Ciao. Allora, ci fermiamo per il traffico, poi altra valangata di ascoltatori. Subito dopo il traffico vi dico una roba. Saluta che ci stanno guardando. Ciao. I love this game. Tutti convocati. Faircam Distribution, la soluzione adatta per la spedizione dei vostri prodotti in Italia e in Europa. Faircam.com vi presenta. Tutti convocati. 14:48, 45. Dopo, era sicuro i mercati, allora, secco, era sicuro i mercati, era sicuro che parleremo di mercato dopo il GR, anche perché c'è questa storia di Allegri. Allora, avevamo invitato un ospite, vi dico questo: avevamo invitato un ospite molto vicino ad Allegri, non ha potuto intervenire, però ci ha scritto una risposta chiudendola con Parigi val bene una messa. Sì, tanto per creare, ve la butto lì, tanto per creare, diciamo, del panico, esatto. Per seminare panico. Massimo, salve, buongiorno a tutti. Si è parlato molto, no, di questa partita anche prima, e ci sono giunto anche a questa conclusione. Secondo me il Real Madrid ha vinto perché è semplicemente più forte, certo. Qualcuno l'aveva detto anche prima. Non ho seguito qualche voi. Volta le finali si perdono anche da essendo più forti, è successo? Sì, certamente è successo quello e poi non lo sai prima. Sono d'accordissimo, però mi ha un pochino ricordato, anche se era diverso, era un'andata e ritorno, un po' la partita col Napoli, ecco. Queste squadre qua sono squadre di marpioni, lo sapete meglio di me, sembra quasi che fanno un po' sfogare quasi l'avversario. Poi a un certo punto, quando dicono cominciamo a giocare, buonanotte. Sì, vabbè, però Massimo, mi perdoni, il Barcellona con tutti i suoi limiti attuali a fine ciclo non è una squadra di pippe, la Juventus l'ha dominato. No, ma il Barcellona era sicuramente in fase calante a fine ciclo. Sicuramente in fase calante a fine ciclo, no, però insomma sì, è stato lì a contendere. Infatti non è che stiamo dicendo che la Juventus assolutamente, è una squadra assolutamente. Serie B. Detto questo, poi c'è anche l'elemento insomma in Napoli interessante, perché indubbiamente, anche se io credo che Real Madrid sia arrivato in una condizione migliore di quella che aveva a febbraio e marzo, però insomma è ovvio che quella sconfitta del Napoli, con quella prima mezz'ora molto buona al Bernabéu e quei primi 50 minuti molto buoni contro il Real Madrid in casa, va riconosciuto che devono essere visti con una luce diversa. Sicuramente, questo non c'è dubbio. Poi rimane secondo me il fatto che è sano che l'ambiente si goda la bellezza del gioco di Sarri, ma lo consideri come un'opportunità costruttiva per continuare a crescere, cioè si focalizzi sulle cose che ancora servono per migliorare piuttosto che compiacersi della bellezza oggettiva assoluta del gioco di Sarri. Però indubbiamente insomma il Napoli può dire di aver perso, sì, contro una anche se con un distacco importante di gol, il fatto contro la squadra che ha vinto la Champions, tecnicamente dal punto di vista dell'organico il Real Madrid fosse superiore alla Juventus lo sapeva anche prima. Quello che non sapevamo è che la Juventus potesse essere presa a schiaffi in questa maniera, perché non c'erano le premesse né le così sì, e poi devo dire la verità, siccome a me piace essere onesto, io non mi ricordo chi ha fatto, se Gazzetta o Premium o Sky, qualcuno ha fatto la top 11 delle due squadre, c'erano 6 giocatori della Juve e 5 del Real. Insomma, non sembrava una follia, no, onestamente. No, a me no. Quando l'ho vista non mi era sembrata una follia. C'erano sicuramente Marcelo, Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo. Va anche detto che se i fuoriclasse della Madrid sono quelli che decidono la partita, quelli della Juve sono quelli che ti lasciano mutare. Fuoriclasse della Madrid, è l'unica previsione che in qualche allora, modo. Fammi finire con Daniele Palermo e Patrick, così chiudiamo l'ora. Daniele, dica. Ciao, salve a tutti. È premesso che secondo me il peccato originale è quello che diceva Cruciani, cioè ci siamo tutti convinti, anche i giocatori e la squadra stessa, che fossimo alla pari o addirittura leggermente superiori. Credo che sia questo il peccato originale. Sì, ma non per pazzia nostra, eh? No. Comunque, ecco. Forse per un po' di cecità di tutti, compreso me, che pensavo fossimo alla pari. E alla prima difficoltà ci siamo sciolti come burro. Premesso che non sono d'accordo su Higuain, a cui se non gli dai le palle da giocare non ha cosa fare, e se Dybala e Mandžukić giocavano 50 metri da lui non gli è arrivata una palla che sia una, il problema è stato che dopo queste bambole la Juventus le ha prese altre volte, solo che poi si chiudeva a testuggine e in qualche modo riusciva. Con il Genoa le ha prese, col Napoli si è ripreso, col Real non si è ripreso più. Anche perché il signor Mandžukić si è fatto fregare la palla del 3-1 come un fesso. Quindi queste bambole la Juve ce l'ha, un conto che ce l'ha. Beh, dei momenti di difficoltà li ha attraversati, ma in situazioni diverse. Patrick, dica. Pronto? Sì, dica. Buonasera. Guardi, la mia è una telefonata di, come si può dire, di felicità, perché io vorrei abbracciare tutti i gufi anti-juventini, la Pandelleria al Brennero, da Ventimiglia. Sindacato gufi. Perché noi siamo una grande famiglia sorridente che stiamo gioendo insieme. E che il calcio è anche questo, con umorismo, senza cattiveria, perché se mancasse questo il calcio sarebbe finito. Io tifo il Milan e volevo dire ai juventini che quella è casa nostra, lo sono in affitto, tenessero casa pulita che stiamo arrivando noi e sistemiamo le cose come si fa per bene. Loro sono in affitto, non è casa loro. Beh, quello che si intende la Champions League, ovviamente. Sì, ci sta. Sì, ma c'è la verità che allora ci sta tutto, ovviamente, l'esultanza dell'antijuventinismo italiano, figuriamoci, è tutto. Quello che ovviamente non ci stanno gli insulti pesanti, il godimento invocando i morti, eccetera, eccetera. No, però, questo che c'entra, dai. No, quello è chiaro. Però l'esultanza dell'antijuventinismo, devo dire che in questo momento sa un po' di frustrazione. Diciamo la verità, cioè raccoglie dentro un po' di frustrazione. Vabbè, ma non c'è niente, cioè, non è l'esultanza dei forti, è l'esultanza di chi perde da anni, non solo perde da anni, ma non riesce a vincere nemmeno in Italia. No, ma è una cosa psicologica, cioè l'esultanza ci sta, perché anche io, che come sai sono tifoso della Lazio, se la Roma vince mi dà fastidio, poi magari ho perso il tifo contro, che gufo sempre, me ne frego. Però l'esultanza dell'antijuventino oggi è un'esultanza di grande frustrazione. Cioè, questa è la realtà. Secondo me c'è un elemento oggettivo che non riesce a vincere. C'è un elemento oggettivo. Cioè, la Juve, lo ribadisco, tanto per essere chiari: la Juve ha una leadership, un brand, uno stile in alcuni suoi protagonisti, che questo tipo di antagonismo lo cavalca, l'ha sempre cavalcato, anche perché lo motiva. No, ma però questo è un dato di fatto. Non sto dicendo che è una porcheria, sto dicendo che è l'esultanza dei frustrati. Certo, però vedi, la Juve con Bonucci che fa il gesto del sciacquato di la bocca, non gliene frega niente di risultare simpatico di così delle altre squadre. Allora, mi devo fermare per il GR. Fermiamoci per il GR. Chi resta? Sì. Tutti? Restate tutti? Certo, Daniel. Va bene. No, okay. Io me ne vado. Tu te ne vai. Allora, Cruciani, devi preparare la puntata. Ciao, Giuseppe Cruciani, grazie. Ciao. A GR. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vuoi stare seduto in panchina a guardare? O vuoi entrare in campo? Ricominciamo tutti ai vostri posti! E andiamo! Tutti convocati. Allora, Pierluigi Pardo oggi è qui con me. Dopo questa notte storta, pazzesca, di sabato, di cui abbiamo parlato fino ad ora, ed è adesso senza soluzione di continuità, è già tempo di mercato. Non solo per la Juventus, regime di concorrenza totale, ma tutti amici. Alessandro Bonan da questa sera calcio mercato l'originale. Io festeggerei il Pierluigi Pardo in studio oggi, direi, tutti insieme, con un brindisi. Tutti insieme, in attesa di sfidarci insieme sul campo da golf, dove Bonan è 10 anni avanti a me, questo va detto. Sì. Però, sì. Bene, riesci a giocare un po' anche durante il mercato? Ma sai, benino, tra l'altro l'ultima garetta secondo, quella prima terzo. Non voglio mai arrivare primo, perché poi ci sono troppe responsabilità, troppa pressione nella gara successiva. Sì, quindi fai come la Juventus, non vuoi vincere la Champions, preferisci arrivare in finale e fermarti lì, così, Bonan. Questa è una battuta perfida, che ti devo dire. Ma partirei proprio dalla Juventus e da qui, perché questa mattina abbiamo contattato una persona molto vicina ad Allegri per intervenire. Non poteva intervenire per questioni che non sto ad elencarti. Ha chiuso il messaggio di risposta scritta con un Parigi val bene una messa. Ma io stamattina invece ho chiamato Di Marzio. Sì. Perché appunto questa storia è certamente molto, molto intrigante di mercato, questa ipotesi Allegri a Paris Saint Germain. Stando ai fatti, lui ha un accordo con la Juventus e un rinnovo di contratto pronto. Stando alle suggestioni e ai cambi di umore delle ultime ore, potrebbe anche essere che sia la Juventus che Allegri decidano di separarsi. Cioè, non è da escludere, certamente non è da escludere, però sinceramente la vedo un po' difficile, anche perché si parla di una cifra tipo 10 milioni di euro che Paris Saint Germain darebbe ad Allegri, che mi sembra una cifra molto alta per un bravissimo allenatore. Tutti sappiamo che Allegri è molto bravo, ma che non è reduce da una vittoria di Champions League, è reduce da una sconfitta. Cioè, di solito, diciamo, si va a trattare quando si ha in mano reduce anche da, però scusami, sì. Ale, cioè, si va a trattare una cifra, sì, per sì, reduce anche da due finali di Champions League in tre anni, da due doblete, da insomma ormai no, possiamo trattarlo. Non voglio dire, cioè, non sminuisce assolutamente la figura di Allegri e la sua bravura. Io sto dicendo soltanto, solitamente funziona un po' così, ecco. No, certo, mi sembra una cifra molto alta. La cifra è alta, non c'è discussione, però è anche vero quello che in qualche modo ha fatto capire Allegri la settimana scorsa, cioè che comunque c'è qualsiasi avanzamento dei lavori sul fronte contrattuale durante la settimana scorsa sarebbe stato assurdo, quindi è ovvio che adesso la partita si giochi, e si gioca in queste 72 ore, e ci sta anche l'ipotesi dei colpi di scena. Anch'io tendo abbastanza ad escluderli. Alcune panchine che potenzialmente potevano essere interessate ad Allegri si sono sistemate nel frattempo, come il Barcellona e come lo stesso Arsenal, dove tanto poi alla fine si sa che rimane Wenger. Poi alla fine Wenger parla con se stesso e decide che vuoi rimanere. Oh Sam, do you want to stay? Yes, I stay. E così più o meno finisce così tutti gli anni. Quindi è rimasto il Paris Saint-Germain, dove Emery sicuramente ha fatto molto male quest'anno. E non lo so, è uno scenario. Siamo proprio nell'ambito delle libere scelte fra persone, ecco, nel senso che non è che ci sono chissà quali aspetti oggettivi. Poi c'è un'altra cosa, scusami, ma se questa ipotesi fosse stata in atto e non può essere uscita adesso, perché non ci credo che esca soltanto perché la Juventus ha perso la finale, cioè, non capisco allora perché l'ipotesi Spalletti sia caduta prima, con largo anticipo, perché Spalletti ha chiuso con l'Inter ormai da diversi giorni, allora sì. Probabilmente non so, quindi anche questo, cioè, che mi fa un po' pensare. Poi ripeto, ci sta tutto, io non anche perché poi si apre il discorso dell'eventuale sostituto, non è che ce ne siano tantissimi, no, in questo momento, se dovesse arrivare una scelta di questo tipo da parte di Allegri, per cui insomma comunque io credo che a questi livelli si siano già parlati prima, comunque, no, come era successo con l'Inter e Mourinho, lo sapevano solo lui e Moratti, però si sapeva, quindi si era già cominciato a prospettare un futuro, quindi mi rifiuto di pensare che da oggi siano lì a trattare. No, ma infatti, però ti ricordi come finire con Conte, no? Cioè, voglio dire, poi il calcio, soprattutto quando poi si tratta di un rapporto fra una singola persona, per quanto matura, responsabile, adulta come Massimiliano Allegri o come Conte qualche anno fa, e poi alla fine però insomma c'è sempre un elemento di imponderabile legato alla motivazione di una persona. Io in linea di massima penso che la sconfitta in finale di Champions, così facendo lo psicanalista da quattro soldi, renda ancora più probabile che Allegri rimanga alla Juve, perché andarsene così, sì. No, cioè, non sarebbe andarsene, il contrario, ecco. Se avesse vinto magari era più facile, certo. Tutti d'accordo su questo punto. Quando l'annuncio di Spalletti, credo a ore, minuti credo. A secondi, io sono molto curioso, non so tu Pier, Alessandro, di capire quale sarà il mercato dell'Inter, perché fino adesso abbiamo visto molto attivo il Milan, anche in maniera molto positiva e molto propositiva, mentre dell'Inter si stava aspettando che arrivasse il comandante in banchina, no? Ma c'era questa ipotesi di una cessione di Perisic da parte dell'Inter che mi lasciava un po' perplesso, perché secondo me Perisic è il giocatore perfetto, cioè, potrebbe essere il Salah dell'Inter, certo. La situazione. Così come per esempio mi sorprende che Salah sia ceduto dalla Roma, perché Salah secondo me quest'anno ha fatto un campionato strepitoso, il giocatore come Salah ma sai che entro fine giugno devono sistemare questioni contabili, quindi un giocatore, un top deve partire all'Inter, o parte Perisic o parte Icardi o fai delle minus valenze clamorose. Mi risulta che su però insomma Bonanni sa sicuramente più di me, occupandosi di mercato 365 giorni all'anno, mi risulta che il discorso sarà Liverpool sia chiuso a livello di agente del giocatore con il Liverpool, cioè c'è un gradimento e c'è un accordo che è stato formulato, ma non è arrivato però ancora. Evidentemente non è che sia fatta una pressione sia sulla gente che sul giocatore di un certo tipo per tenerlo. Comunque detto questo, era giusto perché Salah con Spalletti è cresciuto moltissimo, cioè si è formato anche dal punto di vista tattico, era un po' un anarchico, un selvaggio, uno con una grande corsa, con Spalletti è diventato un giocatore. Perisic ha più o meno le stesse caratteristiche, nel senso che è un giocatore di grande corsa e grande forza, e mi sembra perfetto per gli strappi che Spalletti vuole all'interno di una partita. Anche qui però si tratta di capire se l'Inter ha bisogno di respirare anche dal punto di vista finanziario attraverso un'operazione in uscita importante oppure no. Allora in quel senso ci sta, ma se no tecnicamente non ci sta. No, tecnicamente no, però entro il 30 giugno per questioni di fair play finanziario deve chiudere questo buco, quindi deve cedere un giocatore che sia appetibile. Sì. Questo è il discorso che vale anche per la Roma, dunque o Nainggolan o... insomma, un big deve partire e quello più che ha più mercato nell'Inter è Perisic. Non c'è dubbio. Per chiudere questa chiacchierata, nell'augurarti buona estate che sarà dura, Alessandro Bonan. Grazie. Caso Donnarumma Raiola, cosa ne pensate, ragazzi? Ma Donnarumma dovrebbe firmare non domani, ora. Cioè, se è vero che gli è stato proposto un rinnovo di 5 milioni di euro, 4 e mezzo perché è un ragazzo di 18 anni, un grande club come il Milan, conviene a tutti. Ma subito deve firmare subito, perché doveva già aver firmato, se mi posso permettere, permesso che poi ognuno della vita fa quello che gli pare, però io credo, mi risulta che una parte della grande simpatia che i tifosi del Milan hanno nei confronti di questo ragazzo che è diventato una sorta di capitano di fatto, così giovane, a nemmeno 18 anni, insomma un po' di questo credito si stia già diradando, perché insomma quello che è successo negli ultimi giorni non è bello. Baci la maglia, sei un ragazzo di 18 anni, tutti ti vogliono bene, dici di essere milanista, in qualche modo l'hai dimostrato fino a questo momento, e poi che fai? Insomma, non benissimo. Ma io poi paradossalmente, scusami, firma per quei soldi, a 18 anni fa il titolare al Milan, non al Cavese, con tutto rispetto per la Cavese, metti 2 anni, e tra 2 anni City United, porte del mondo aperte. Ma sì, oltretutto. Fra l'altro 2, 3, 4, 5 anni, tra 5 anni avrà 23 anni, portiamo la vita fino a 40. Ma è chiaro, anni. Ale. Fra l'altro occhio, perché oggi noi ovviamente abbiamo ancora 1000 punti interrogativi sul Milan, ma al di là del fatto che il Milan si sta muovendo, cioè dà la sensazione di avere un budget che magari non è un budget monumentale, però si è mosso subito, che si è Musacchio, Biglia probabilmente, quindi, insomma, precise. Mi sembra che qualcosa stia facendo e stia sicuramente cercando di migliorare, ma al di là di questo il Milan, l'abbiamo detto 1000 volte, per il brand che ha, per la storia che ha, per la quantità di tifosi che ha in Italia e nel mondo, è destinato a far bene, quindi per uno giovane come Donnarumma, insomma, al di là di tutti gli aspetti, se vuoi, di riconoscenza e diciamo così etici, uso una parola grossa, c'è anche l'aspetto pratico, cioè, aspetta 2-3 anni, perché magari il Milan veramente in 2-3 anni torna a essere una regina del calcio europeo, non sarei così sorpreso. Sono d'accordo con te. Ciao Ale, bocca al lupo. Ciao ragazzi, bocca al lupo. Grazie, crepi, in bocca al lupo, crepi, Alessandro, crepi, Alessandro, crepi. Buon anno. Calcio mercato l'originale, domani andiamo anche in casa premium, sì. Ma noi poi noi ci guardiamo tutti adesso, cosa ci guardiamo che... tutti, sì, sì, noi guardiamo, sì. loro guardano noi, cioè, sai com'è, no, questa storia qui. Senti, torniamo un attimo agli ascoltatori, che sono bollenti. Assolutamente. Poi Mugello, il gioco è successo ieri, l'unica pillola dolce del weekend sportivo. Stefano, buonasera e complimenti per la trasmissione. E come va, bell'uomo? Tutto bene. Stefano, tifoso Juventino deluso. Ah, tifoso Juventino a Firenze deluso, mentre tutto deluso. Il resto della città fa festa ancora adesso. Infatti. Ecco, volevo sapere questa cosa, sui gol del Real, adesso non è per mettere il dito nella piaga, a Firenze, che reazione c'era per le strade? Lei dove si trovava? ma io mi trovo un po' fuori Firenze, fuori. Se, però fuori, sentiva, fuori. Sentiva il boato che saliva dalla città. Sì, infatti questa è la seconda considerazione che volevo fare. La prima era come si fa a non diciamo evidenziare in Higuain un responsabile quando è stato acquistato per dare un valore aggiunto con un investimento importante. E poi lo score della Champions parla di 5 gol, tra l'altro due fatti praticamente nella partita con il Monaco. Se si va a fare il raffronto con gli altri, con le altre squadre, si vede che ci sono un Cavani a 8 gol, un Aubameyang a 7 gol, e la smetterei con il fatto che non è stato servito, non è stato messo nelle condizioni, perché così si crea troppi alibi. Ricordo all'ascoltatore di prima che è stato servito per 4 volte palle alla porta e ha fatto lo stesso movimento girandosi sulla destra, e Sergio Ramos l'ha praticamente neutralizzato come se fosse un pivello di campionato dilettantistico. Per cui, cioè, i dati, se si confrontano con i dati dei bomber delle altre squadre, sono impietosi, e sicuramente una squadra che vuol vincere la Champions non può avere una punta che fa 5 gol, secondo me, nella totalità delle partite, perché poi gli altri nomi che ho fatto hanno pure giocato partite in meno, perché il PSG si è fermato prima, il Dortmund si è fermato prima, ha fatto anche due gol in semifinale. Io sono perfettamente d'accordo a metà, come credo Garzia diceva qualche anno fa in mai dire gol, nel senso che è vero, ed è anche vero che però insomma è difficile, soprattutto nel calcio della Champions League, che è un calcio basato sull'attimo fuggente, è difficile dare una valutazione. Allora, se dovessimo dire quest'anno, allora lo stipendio di Messi, parliamo del più grande di tutti probabilmente assieme a Cristiano Ronaldo, lo stipendio di Messi nelle due partite più importanti della stagione contro la Juve, Messi non si è visto. E allora che facciamo? Cioè, sono d'accordo, è chiaro che la Juve era una squadra abituata a vincere in campionato e in Coppa Italia, questo investimento monster l'ha fatto per crescere in Champions League, e quindi poi è ovvio che dopo una finale persa, è persa malissimo, come quella dell'altro giorno, nella quale Higuain praticamente non l'ha mai strusciata, è ovvio che qualche domanda uno se la possa fare. Se la può fare anche su Dybala che stavamo a parlare 20 giorni fa di possibile pallone d'oro in caso in cui la Juve, con il suo ovviamente contributo determinante, fosse arrivata in cima all'Europa. Anche lo stesso Dybala non ha strusciato pallone, ha giocato una partita pessima. Fabrizio, buongiorno. Dica. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Io sono juventino, non sono tanto d'accordo con l'ascoltatore di prima, dico questo: da quando Allegri ha cambiato il modulo abbiamo sempre giocato con la stessa formazione, dunque non avendo più centrocampisti, allora ricordo che 15 o 20 giorni fa si era fatto male Khedira, la penultima partita, l'ultima partita si è fatto male di nuovo Marchisio, Sturar si è fatto male di nuovo male, e dunque con chi andavamo a centrocampo? Con Rincon. Dunque noi siamo arrivati, abbiamo tenuto il primo tempo guardando la tabella che ha fatto la Gazzetta dello Sport, dove abbiamo vinto tutti i contrasti, i passaggi positivi, negativi, così al secondo tempo siamo calati perché al centrocampo non avevamo più nessuno. Sì, Allegri questa si è girato differenza. Verso la banchina e non ha visto non ha visto nessuno. Questa è una riflessione che ha diritto di cittadinanza. Quel buco del centrocampista che mancava non è stato chiuso. Questa è una considerazione secondo me del tutto legittima. Allora, hai visto Mugello ieri? No, ma sì, cioè l'ho seguito, sono contento, è stata una bellissima gara. Adesso. Non l'ho vista, però insomma. Ne parliamo, un attimo, per chiudere. Possiamo tornare là davanti, dove Andrea Dovizioso percorre l'ultima curva. Andrea Dovizioso, Dovi Power. Ma ce l'abbiamo fatta, cioè qualcosa di il sogno di tutti, vincere il Mugello in qualsiasi classe, in MotoGP è ancora più difficile, tutti piangono, c'è un motivo perché tutti piangono quando vincono, tanto pure tu, dai. È talmente complicato, c'è talmente tanto stress e pressione che quando succede wow. Oggi era difficile, incredibile, non me lo aspettavo Valentino e anche Mark i Johan, però alla fine Andrea è stato un gran livello, anche Petrucci mi ha sorpreso tanto, perché quando mi ha passato mi ha costato, ho provato a fatta di 6 giri di andare per Andrea, però hoy non era il dia. è stata una gara lunghissima, difficile, ancora non ci credo tantissimo. Ho guardato il maxischermo nel giro di diciamo d'onore, ho guardato, ho detto ma sono terzo, sì, sono terzo. Grande Petruccione con l'accento ternano, grande Petruccione, grande Freak Brother, Panzallegra. Ieri, quantomeno al Mugello, dopo la notte drammatica della Juventus, tripletta italiana, perché hanno vinto anche Migno e Pasini nelle altre due classi, e io sono particolarmente contento che il Dovi abbia vinto questa corsa, al di là del fatto che è un pilota italiano che corre con una moto italiana, la Ducati. Valentino Rossi quarto, però sappiamo come avesse problemi fisici dopo quell'incidente che era successo, forse più di così non poteva fare. Roberto Ungaro, chiosa tu. Ciao Carlo, ciao Pierluigi. Ciao. Peccato Pierluigi che non l'hai visto lo spettacolo del Mugello, no, perché è la prima volta che un pilota italiano su una casa italiana è riuscito ad andare a successo. Ma più che Made in Italy, è stato Made in Romagna, perché le tre classi sono state... No, è che... Sì. Al tuo telefono, gli ha preso il tuo telefono. Sì, no, sono gli emiliani, che quando ha sentito Made in Romagna c'è stata la rivalità regionale. Sono gli emiliani, dici. Roberto, no. Ci sei? Adesso mori chiamiamo, ti faccio portare a vedere una... Hai mai visto una corsa in MotoGP? No, ho visto la Formula 1 e no, devi... Sì, lo so, ho visto il motocross divertente. Ma lì, andrò a vedere un'altra cosa, ti portiamo magari a Misano, che a settembre... Io qua sto. Sai, mica male. Vediamo se riusciamo a recuperare Roberto Ungaro. Robi, ci sei? Pronto, ecco. Eccoci. Made in Romagna, stavi dicendo. Made in Romagna, sì, e poi è stato un bello spettacolo perché quando era sul podio, qua la premiazione, Dovizioso ha visto tutto quel giallo che era lì anche per lui, ha detto so che non siete qua per me, però vi ringrazio lo stesso ed è bello vedervi. Quindi è stato un bello sport, insomma, assolutamente un bello spettacolo. Peccato per Vale, ci ha illuso. È partito razzo, ha fatto tre giri che sono da veramente un capolavoro, però poi non ha retto fisicamente e era un ritmo troppo elevato, perché quei primi tre giri lì non potevano stare sempre così, tanti sorpassi attaccati, per noi è stato entusiasmante. Sorpresa è stata la Ducati, l'abbiamo detto, anche perché Petrucci, Bautista e gli altri sono stati molto vicini, quindi hanno recuperato, a parte un Lorenzo che anche lui ci ha illuso all'inizio, però non c'è verso, secondo me lui ha uno stile di guida troppo diverso e non riesce ad adattarsi, questo è il problema, non riesce assolutamente, lo fa per qualche giro, però poi non tiene fisicamente e non ce la fa, centro curva dei problemi, lo ammette lui stesso, deve trovare la quadra. Grande assente la Honda, perché lì non ha cavato un ragno. Sì, non è presto per parlare crisi di Honda, però ho parlato con dei tecnici e mi dicono che il problema, a parte che le licenze adattano male, per la loro moto, ma il problema è che la potenza è molto brusca, fanno fatica con l'elettronica a mettere in terra i cavalli. Marquez ha sempre messo una pezza, adesso non ce la fa più neanche lui. E questa non è una brutta notizia per la Ducati, per Valentino. Però posso fare 30 secondi? Vai. Capire, sì. Che succede a Valentino, nel senso, mi sembra appunto 6 secondi. Ecco, che ci siano dei picchi di rendimento ancora da fenomeno, però ultimamente forse qualche errore di troppo, penso anche alla gara precedente. Gara precedente si può parlare di errore, ma secondo me ha fatto bene, io lo giustifico, perché quando sei un campione devi fare la differenza e quando sei lì era uno schiaffo per Vignales, che è davanti, che è nuovo, che avanza, lui è più vecchio, è più lento, tutto quanto, pensate cosa avrebbe voluto dire stargli davanti psicologicamente. Poi ha sbagliato, ok, ci sta, però ho visto un Valentino che si merita di vincere un mondiale, perché ha quel passo, ha quella cattiveria, quella fame che solo così puoi vincere un mondiale, non puoi andare di conserva ed esperienza, per vincere un mondiale devi vincere delle gare, lui ci ha provato e ce lo ha dimostrato. Roby, alla prossima, grazie, alla prossima, grazie. Ciao, anche con te Pierluigi Pardi, sai quando torni? Adesso vediamo. Ho finito il presentale, 24 giorni. Domani ci sentiamo. A Cologno Ponzese, domani ci sentiamo sicuro. Ore 14, tutti convocati. Giorgio Luca, il nostro autore, Gianmarco Veronato in regia, Edoardo Lavezzari contumace. Non è in redazione oggi perché è a Berlino in vacanza. Beato lui. Ciao. A Berlino ci sono stato con Boretti. Abbiamo visto abbastanza. Ciao a tutti. Saluti.